America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, i brividi della giornata di ieri, lotto volante a Wall Street, la caduta di 300 punti nei primi 10 minuti di apertura, poi il recupero graduale di quasi tutte le perdite, la risalita fino al di sopra di quota 10.000 punti per l'indice Dow Jones, una barriera, devo dire, psicologica fondamentale. Beh, insomma, tutto quel che è successo ieri sui mercati ha prodotto ramificazioni che sono giunte fino a la Casa Bianca, dove il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente Barack Obama hanno avuto ieri un colloquio dedicato soprattutto alla crisi e all'impegno comune transatlantico per rafforzare l'integrazione europea e procedere con misure che possano dare fiducia ai mercati, con una rassicurazione forte del presidente Napolitano. Sentiamolo. L'euro non è a rischio e tantomeno è a rischio la costruzione europea, a patto che ci sia un balzo in avanti sulla via della integrazione e che quindi si vada verso una maggiore disciplina di bilancio, un effettivo coordinamento tra le politiche economiche, più politiche comuni, per esempio nel campo dell'energia, dell'ambiente e così via, e anche più risorse per il bilancio dell'Unione Europea. Il nostro presidente rassicura, ma l'euro ha toccato minimi di 1,21 sul dollaro, poi è risalito leggermente. Gli operatori tuttavia ritengono che possa scendere anche nei teen, cioè al di sotto di quota 1,20, questione di giorni, dicono alcuni che ho sentito a Wall Street. Alcune banche europee, soprattutto spagnole, sono in difficoltà, la crisi Nord Sud Corea non aiuta, i rendimenti sui buoni del tesoro americano sono scesi, mentre quelli sui junk bonds salgono addirittura in alcuni casi su livelli record. Vi sono incertezze alla fine sulla capacità di reazione dell'Europa davanti a questi attacchi concentrici dei mercati. Però per Napolitano questa è l'occasione per proseguire lungo la strada dell'integrazione e per poter finalmente prendere delle misure che consentano di riportare l'Europa lungo la strada della serietà fiscale, del risanamento fiscale. Ecco il presidente che mi dà la parola quando gli sto per fare proprio una domanda su questo argomento. Bis Platero, prego. E chiedo al presidente Napolitano qual è la sua posizione personale sulla manovra approvata ieri dal governo. Sentiamolo. Io ribadisco che più queste proposte necessarie, assolutamente necessarie, per fare la nostra parte in Europa, non perché l'Europa ci metta con le spalle al muro chiedendoci qualcosa che non vogliamo fare, ma perché come paese che ha un ruolo fondamentale nell'Europa siamo convinti che per garantire la solidità dell'euro, la stabilità finanziaria e anche quindi una prospettiva di crescita dell'economia europea è indispensabile contenere il debito pubblico. E io posso dire che questa manovra, che è oggettivamente necessaria ed è necessaria in una dimensione che non è arbitraria, perché è quella necessaria per rientrare col rapporto deficit-PIL entro il 3% nel 2012, più sarà ponderata accuratamente, terrà conto anche delle esigenze dello sviluppo e sarà equa socialmente, potrà anche essere condivisa politicamente, sarebbe molto importante per l'Italia che in ciò si riuscisse. Chiedo anche al nostro capo dello Stato se non è preoccupato dal fatto che l'America di Obama sembri trascurare l'Europa più di altri presidenti, dedicando invece molta attenzione ai grandi paesi emergenti. E alla fine però, come vediamo, è nello stagno atlantico che sentiamo le più forti mareggiate del mercato. Io penso che sembra e sia un presidente americano molto più aperto allo sviluppo dei rapporti con le nuove grandi potenze emergenti, insomma tiene conto in modo più open-minded, senza pregiudiziali di sorta, delle nuove realtà della politica mondiale. Ma se noi europei, io l'ho detto anche, se noi europei pensiamo che questo significhi trascurare le relazioni transatlantiche, commettiamo noi un errore o mostriamo di avere noi un complesso di gelosia perché ci si occupa di altri. Cioè, le relazioni transatlantiche non sono, non possono essere la sola dimensione della politica estera americana e direi nemmeno della politica estera europea. Sono una pietra miliare, però anche noi cerchiamo di avere una nostra iniziativa verso la Russia, verso la Cina, verso il Brasile e così continuando. Forse ha ragione il Presidente, forse non dovremmo essere gelosi, ma qui secondo me non è questione soltanto di gelosia. È stato Obama a cancellare in modo unilaterale il vertice europeo. È stato il presidente americano al vertice di Praga ad aver messo il rapporto con Mosca davanti a quello con i paesi dell'Est Europa. È stato Obama infine a giocare il ruolo del divide et impera. Parla con alcuni capi di Stato europei e non con altri, e questo forse non aiuta. Devo dire che in queste circostanze mi aspetterei dalla Casa Bianca di Obama, dal presidente stesso, qualcosa di più. Ma perché, per esempio, non rilancia il vertice che aveva cancellato con l'Europa? Se c'è un momento per farlo, è proprio questo. Ma temo che dalla Casa Bianca questo messaggio non verrà. Altre notizie. Obama ha annunciato di voler spedire 1200 uomini al confine con il Messico. Il senatore McCain ne chiede 6000, non solo per proteggere i confini dagli immigrati illegali. Ricordiamolo, McCain è dell'Arizona e l'Arizona ha approvato quella controversa legge che consente alla polizia di arrestare chiunque per strada e se poi risulta essere un immigrato illegale viene subito ricacciato, indipendentemente dal fatto che possa avere figli, famiglia, che si sono magari stabiliti o che addirittura sono nati in America. Ma la questione, dicevo, non è soltanto per l'immigrazione illegale, anche per combattere il traffico di droga e per proteggere l'America da efferatezze che si fanno in posti come Ciudad Juarez. Un'altra notizia: il Pentagono è pronto ad aprire ai gay nell'esercito. Ci vorrà tempo, però con le dichiarazioni del segretario al Pentagono Gates di ieri, di fatto si chiude l'era del don't ask, don't tell, una formula un po' ipocrita, il famoso compromesso inventato dal presidente Bill Clinton: don't ask, non chiedere, don't tell, non dire, non rivelare. Dunque, allora, si poteva essere gay nell'esercito, bastava che non si ufficializzasse, una regola che dura tuttora e che giustamente forse è meglio abolire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Well, we know. To Nowhere dei Talking Heads. Perché? Beh, il fondatore dei Talking Heads, David Byrne, ha chiesto un risarcimento da $1 milione al governatore della Florida, Crist, per aver utilizzato in un suo spot elettorale, appunto, la canzone Road to Nowhere. Ecco, ve la facciamo sentire senza dover sborsare, speriamo, $1 milione. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.